anche Craig che ci fa compagnia. Benvenuti! Benvenuti al 46esimo episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo e ci tengo a dire che Marco non si fidava di me che questo era il 46esimo episodio. Questo lo metto a verbale. Se lo ricorderò. Bene, Marco. Ora che mi hai infamato per la puntata. Tu pensavi che non ti infamavo, invece ti ho infamato subito. Continuo a sperare. Quindi, benvenuti. Oggi puntata, piccola introduzione, oggi puntata almeno per me speciale, perché devo essere sincero, l'idea di questa puntata, l'argomento di cui parleremo oggi, era una di quelle cose che mi ha spinto anche a fare un po' questo podcast, perché ho detto, guarda, se facciamo un podcast, io voglio a un certo punto sfogarmi su certe cose qui, perché sì, altrimenti non ne vale la pena. Quindi, come dire, momento catartico per me. E forse anche per Jacopo, ce lo dirà lui tra poco, immagino. Ma, come al solito... La catarsi in questo episodio... c'entra molto, cioè molto a braccetto, diciamo. Ma dicevo, come al solito, andiamo con ordine. Iniziamo dalle nostre amatissime rubriche. Quindi, Jacopo, a che hai giocato questa settimana? Vediamo. Oh, stavolta ho qualcosa da dire, finalmente, cazzo. Ho finito due giochi. Beh, uno è Hades, ne ho parlato già a profusione, diciamo, in queste settimane. E, il finale non voglio spoilerarlo per chi, non, per chi magari vorrà giocarlo, così mi ha stupito, nel senso che è uno di quei finali che ti lascia un po' ok, però non in senso negativo, cioè non è che tipo mi aspettavo chissà cosa e quindi mi ha deluso. È un finale che ultimamente è molto inconsueto, cioè non è molto, non è, vabbè, non dico altro, finale. Non è il classico finale ultimamente, diciamo, mettiamola così. E quindi vabbè, ho apprezzato retroattivamente, pensandoci un po', ho apprezzato un po' di più che cosa cercano di dire, cosa hanno cercato di dire con questo finale. E non ho visto l'epilogo, perché c'è anche un epilogo, ma immagino che ci sia una possibilità per un sequel, da come hanno impostato la cosa. Non escludo un sequel, nel senso che so che l'epilogo comunque va sulla stessa strada del finale, per non dire bene cosa, ho letto qualcosa, ma per come è impostato un po' il mondo, la lore, c'è qualcosina che, cioè, intravedo un briciolo di sequel all'orizzonte, mettiamola così. O più che sequel, non mi dispiacerebbe qualcosa nello stesso universo. So che loro non gli piace fare queste cose di... La Supergiant non ripete. Però mi piacerebbe se in futuro tornassero un po' su, perché tra i giochi che hanno fatto loro è quello che secondo me ha più potenzialità per esplorarlo un pochino di più in un sequel. Magari uno solo, magari una cosa diversa, comunque non per forza un Hades 2. Comunque vabbè. Sarebbe un DLC. Scusatemi, oggi la voce... un DLC, bravo. Un DLC, bravo. Esatto. Un DLC, sarebbe perfetto, sì. O un DLC o uno spin-off, sarei contentissimo. Comunque vabbè, continuerò a giocarlo perché appunto non l'ho finito davvero al 100%. Non lo finirò mai al 100%. Il secondo gioco che ho giocato, che ho finito, iniziato e finito nel corso di questa pausa tra podcast, è Metroid Dread. Ho comprato Metroid Dread perché ho detto, vabbè, ha delle buone recensioni, non ho mai toccato un Metroid, ma tutti i Metroidvania che ho giocato mi sono piaciuti, quindi ho detto, perché no, prendere il 50% della parola Metroidvania, non l'ho giocato mai perché Castlevania Symphony of the Night invece l'ho giocato. L'altro sarebbe ora di giocarlo. E molto bello, ma molto vecchio. Nel senso che il gioco è moderno sotto molti punti di vista. In realtà so che sembra, ah cazzo, un gioco in 2.5D, che cazzo, sempre classico, così. In realtà ha molte cose che sono molto quality of life, cioè molti miglioramenti che vanno a smussare un po' gli angoli che hanno i vecchi Metroidvania. E ora non sono un fan, non conosco benissimo cosa c'era nei titoli precedenti, ci sono alcune cose che mi sembrano molto anni 2000, infatti tipo uno degli ultimi, mi sa, uno degli ultimi Metroid, forse il penultimo appunto, aveva introdotto questa cosa del parry. Qui ce l'hanno usato di nuovo, ma è molto più importante come meccanica il bloccare gli attacchi nemici. La difficoltà è altissima. La difficoltà di questo gioco ha delle impennate assurde verso la fine, cioè cose veramente che non so neanche raccontarvi per quanto sono assurde, ma per me è veramente troppo frustrante, troppo difficile, ma il vero problema non è questo quanto i controlli, cioè in alcuni momenti i controlli per alcuni puzzle, diciamo, di ambientali sono veramente, veramente capricciosi, sono controlli non precisi, non, cioè sono controlli ambigui, sono controlli, cioè è figlio di un'era in cui avevi 400 miliardi di cose da fare. Veramente hai una specie di sovraccarico sensoriale in alcuni momenti che non riesci a fare delle cose. Il gioco non te le spiega mai, non ha dei tutorial contestuali per alcune cose che presuppone tu sappia perché hai giocato altri Metroid. È una roba. Secondo me volevano fare una cosa un pochino, come dire, per veterani, cioè per persone fan della serie o per persone che non si fanno problemi a cercare guide online, cose così, ma non ho apprezzato il design, alcune scelte di design di cose nascoste, puzzle, eccetera, e alcuni mini boss ripetuti un po' troppo difficili. Per il resto il gioco scorre benissimo, il level design è spettacolare, il level design è uno dei migliori degli ultimi anni. Nonostante le limitazioni, è una cosa che riesce ad essere comunque allo stesso tempo aperto, invitante all'esplorazione, ma anche hai una direzione precisa dove andare. È una linea sottilissima da camminare. Cioè, è strano da definire. Hai delle strade ben precise da seguire per sbloccare i tuoi power-up in un certo ordine, ma allo stesso tempo vedi dove potresti andare, cosa potresti fare, hai dei... È strano, mi piace molto come è fatto, la mappa. Quindi ecco, un po'... sono sicuro che appunto i fan della saga lo apprezzeranno tantissimo, come io apprezzerò Infinite. Infinite Metroid? Halo Infinite. No. Ah, no. Scusa, mi tornava. Io da Halo Infinite mi aspetto che non sia un gioco che tutti apprezzeranno, specialmente quelli che non sono fan della saga, ma per chi è fan della saga, secondo me, sarà molto divertente, molto godibile. Tu dici che hanno fatto più un gioco per già chi amava la saga, per, diciamo, piuttosto che un po' per tutti. Loro magari vorrebbero farlo per tutti, ma secondo me delle novità saranno più apprezzate da fan della saga, perché per loro sono delle novità. Nel senso che vedranno più le sottigliezze, saranno più a loro agio. Cosa che con Metroid appunto vedo benissimo, cioè nel caso di Metroid vedo benissimo un fan che si trova molto a suo agio con i controlli, con il tipo di, diciamo, di collezionabili nascosti, con le battaglie e tutto. Cioè è questo che intendo principalmente. Capisco, infatti stavo appunto dicendo che mi era sembrato di percepire pareri contrastanti, nel senso c'è chi diceva un altro grandissimo Metroid, c'è chi diceva un po' più, ma forse è proprio questo, come dicevi tu, che magari, non dico che, oddio, forse in realtà sto dicendo proprio questo, magari sta invecchiando un po' anche la saga di Metroid, inteso non c'è più lo stesso desiderio di giocare un gioco di quel tipo, può essere, chi lo sa, non mi azzardo in realtà perché a fare pareri di questo tipo, perché in realtà non sono espertissimo della saga, ne ho provati, ho giocato qualche Castlevania, non ho provato qualche Metroid, ma non penso di averne mai finito uno, quindi, e di sicuro non ho giocato a Metroid Dread, quindi non dico altro. No, vabbè, secondo me come genere è molto attuale in realtà. Cioè, non è un genere che è andato un po' a sparire del tutto, cioè c'è... È un po' andato... un po' lo stile, come dicevi tu, i controlli di un certo tipo, le meccaniche di un certo tipo. Sì, esatto, cioè è più... Cioè è come dire, ah, nessuno fa più Zelda perché il genere RPG è morto. No, non c'è più quel tipo di RPG come era una volta, infatti c'è... Cioè, La serie stessa di Pokémon, come abbiamo parlato, non voglio triggerarti, ma come hai detto tu, è anacronistica, ma il core, cioè la base, le meccaniche che ci sono alla base esistono ancora, solo che sono state molto più fluidificate, rese più godibili, più fruibili, più oliate, cosa che Metroid Dread non è riuscito a fare appieno. Cioè ho visto gameplay di Fist... Forged in Shadow Torch si chiama. Ah sì, quello sì, con un coniglio. Con il coniglio e il pugno enorme. Ho visto gameplay che sembrano molto più fluidi di Metroid Dread, ma almeno a prima vista non so, dovrò giocarlo per pad alla mano per sentire la differenza. Capisco. Vediamo, per quanto riguarda me invece, io ho... Avevo già finito Witcher 3 allo scorsa registrazione, se non sbaglio, giusto? Mi pare avrei sì. Avrei già parlato, sì, ci ho fatto... Ah, sì, perché mi ricordo che ci eravamo fermati parecchio a parlare su tutto Witcher 3. E finito The Witcher 3, ho fatto un po' di palate cleansing, ho spiucato di qua e di là, ho finito il DLC di Outer Wild, che non mi sembrava di averne... Non mi sembra di averne parlato nello scorso episodio, quindi lo metto qui... Ed è stato Outer Wild, penso che l'episodio che abbiamo dedicato esclusivamente ad Outer Wild possa essere sufficiente a farmi intuire la mia, come dire, il mio amore per questo gioco, che è stato un po' più ignorato di quanto non ritengo sia giusto, e forse anche Jacopo concorda. Il DLC è stato diverso, e penso che Jacopo concorderà con me nel dire che è un'esperienza diversa, di sicuro, più, l'hanno detto chiaramente, anche un po' più horror, diciamo, ma che comunque, se uno trova il coraggio di finire, si rivela essere praticamente in completa armonia già con tutto quello che diceva gioco principale. Poi anche l'esecuzione è stata magistrale, il fatto che non dire nulla, ne parleremo con la prevenzione con Luca, perfettamente integrato nel mondo, anche con tutto quello che, come dire, c'è una logica anche in tutto quello che esisteva prima dell'esistenza di questo DLC, che non va assolutamente a essere rovinata. È complesso, ma ne parleremo poi. Parleremo nelle DLC. A sé stante. Sarà una puntata speciale in mezzo a casaccio. La rilasceremo a sorpresa in mezzo alla settimana, quando la registreremo. Quando meno ve l'aspettate. Esatto. Ed appunto, finito quello, poi mi è capitato di... Mi sono passati per le mani un paio di giochi. Uno era The Beginner's Guide, che in realtà avevo da non mi ricordo quanto nell'elenco di giochi di Steam, ma non avevo mai trovato il tempo di giocarci. E breve, ma anche questo molto apprezzato, un bel messaggio. Anche lì è un altro di quei giochi in cui non si può minimamente fare spoiler, perché sennò togli completamente il punto di giocarci se rovini se fai spoiler. È un'ottima, come dire, anche argomentazione, chiamiamola così, un'ottima, cioè un ottimo punto, no? Una morale della storia che mi ha colpito, anche perché effettivamente mi ha fatto ripensare su certe cose a cui forse, non so, anche lì ero un po' pregiudicato. O comunque mi ha fatto ampliare i miei orizzonti, mettiamolo così, mi ha fatto ampliare le opinioni, che è sempre buono anche da questi punti di vista. Poi io ho giocato a Bucket Detective, che è un gioco brevissimo, proprio dura credo una cosa come un'ora e mezza al massimo, e che mi intrigava perché era dello stesso autore di The Static Speaks My Name, che è anche lì un'altra piccola esperienza, di forse anche più breve di The Bucket Detective. E non so, da quando ho giocato The Static ero diventato un piccolo fan di quest'autore. Oddio, adesso non mi sta venendo il nome, ovviamente, però piccolo fan dell'autore, e ci tenevo a giocare anche questo titolo. Carino, interessante, una piccola avventura autocontenuta e come dire, vale la pena, anche perché credo costi, quando è in sconto, tipo un euro su Steam o una cosa del genere, quindi se vi capita, o giù di lì. Detto questo, invece, mi sono avventurato, qua capirete la battuta tra poco, in un'impresa più titanica, quando ho iniziato Outward, che ho comprato sempre in sconto, perché ci stava, sono stati gli sconti adesso su Steam e io spilorcio come sono, ne approfitto. E ho comprato Outward ed è molto interessante, ma mi trattengo ancora dal fare, dal dire tutti i pareri, perché devo giocarlo ancora un po'. Sono proprio all'inizio praticamente, ho giocato qualche ora, anche se Steam probabilmente dice il contrario. E però molto interessante, molto, molto bello. E poi ovviamente questa settimana i miei compagni di avventura mi hanno insegnato a fare il pirata su... Esatto. Beh, che... due su tre ti hanno insegnato a fare il pirata. Uno si è perso in fondo al mar. Jacopo è andato ha fatto un'avventura tutta... No, vabbè, non lo faccio più, è solo che mi sentivo molto sirenetto in quel momento. Visto questa bella struttura subacquea, ci sono buttato dentro. E una cosa volevo dire. Come al mio solito sono sempre stato forse un po' troppo cattivo con Sea of Thieves. L'avevo un po' forse criticata aspramente senza mai averlo veramente provato, da quelli che sentiva dire in giro. Per me l'idea ancora di vendere i bauli che trovi è da manicomio un po', però... Però il punto è che funziona se si gioca insieme. Non è un gioco da single player lì, per questo era anche un po' abbastanza chiaramente. Forse era anche quello che, non avendo mai avuto occasione di giocarlo in compagnia, l'avevo sempre snobbato, però ecco, giocandolo insieme sembra più quasi un party game che un gioco di avventura o altro, perché alla fine lo spirito è un po' quello, almeno secondo la mia modesta opinione. E basta. Dirti una notizia relativa, così passiamo a download updates. Assolutamente. Allora, qualche episodio fa, Marco ha detto su questo stesso podcast: questo no. Gioco mi sembra un po' una cagata, mi sembra un po' una merda. Oh no, cosa questo sei? Gioco è uscito e tutti ne parlano strabene, e tant'è che sono quasi convinto a comprarlo, diciamo, prima dei mega sconti di Steam. E questo gioco è Guardiani della Galassia. Ok, cioè, va bene. Va bene? Cioè... Mi sa che poi in quell'occasione ti ho pure detto: Marco, vai che c'è il cantiere per i vecchietti, per guardare gente che sta al cantiere. Allora, ho sentito anch'io delle buone voci sul gioco, ho visto anche un pochino in giro, non tantissimo, e sì, lo ammetto anch'io, ha dimostrato di, come dire, darmi torto in questo caso. E... No, finisci quello che volevi dire. No, questo è per dire che per una volta noi, vabbè, siamo entrambi in realtà abbastanza, come dire, non voglio dire cinici, ma un po' pessimisti, diciamo. Per me puoi dirlo, io sono. Siamo un po' pessimisti per molte cose, diciamo che per una volta l'ottimismo, la speranza ha trionfato, e questo gioco sembra essere uscito con il buco. Una ciambella con il buco, e anche il buco della ciambella sembra fatto bene, diciamo, perché è un gioco che è single player, senza microtransazioni, senza nulla del genere, divertente, ben, diciamo, strutturato, cioè so di gente che ha letteralmente riso a delle battute. Sì, un gioco è qualcosa che mi ha sorpreso di più, che effettivamente le battute sono scritte bene, quindi... Secondo me a questo punto direi di cambiare un po' la narrativa e dire è uno dei giochi peggio pubblicizzati della storia, perché da tutti i trailer e gameplay sembrava veramente una merda. Questo, cioè, sono sincero, anch'io magari mi ero un po' astenuto perché comunque mi incuriosiva il fatto che fosse solo single player, sinceramente, perché rispetto ad Avengers già era un bel passo avanti. I personaggi mi piacciono, quindi... Però, sinceramente, aver saputo che il gameplay, per esempio, è facile, ma non è una cagata colossale noiosa, nel senso che hai dei momenti, tipo, dove tu puoi prendere i nemici... puoi prendere gli altri guardiani e fargli una specie di discorso che li fomenta, in base a delle... Inspiring leader fit. Sì, esatto. Tipo, in base alle preoccupazioni che hanno dietro di loro, tu vedi, tipo, ogni personaggio ha delle preoccupazioni in quel momento. Devi scegliere un discorso da fargli per fomentarlo, per caricarlo a bestia, diciamo. Questo non lo sapevo. E ci sono anche delle combo che puoi fare con vari personaggi. Ogni personaggio ha il suo tipo di danno, il suo tipo di, diciamo, di eccellenza in combattimento. Hai un pochino di esplorazione, mondi comunque interessanti visivamente, battute, storia abbastanza... Non mi sembra una storia, da quello che ho capito, ultra variabile, nel senso non è che hai delle scelte enormi che cambiano completamente la storia, però hai delle scelte che cambiano la storia, nel senso... Quindi, insomma, probabilmente lo giocherò prima o poi, questo volevo dire... In realtà, di download updates veri e propri, potremmo parlare come al solito di Activision Blizzard. Solo una cosa, da come ho sentito io, giusto per aggiungere, perché ci tenevo. Dicevi, pubblicizzato male. Io l'ho sentito proprio del tipo... Hanno pubblicizzato il gioco usando lo shooting e la customizzazione, che sono le due parti peggiori del tutto il gioco. Quindi lì magari hanno sbagliato, hanno pagato troppo l'agenzia pubblicitaria. A parte allora, io posso perdonare Halo Infinite che mi fa become Master Chief per la 500ª volta nel trailer. Ci sta, posso capire. C'è anche il grappling hook, quindi ti senti come Spider-Man in effetti. Esatto. No, allora, c'è... La campagna marketing di Halo Infinite è migliorata parecchio rispetto all'anno scorso. Comunque ancora sembrano un po' bloccati sul cercare di venderlo come ritorno alle origini, Master Chief Cortana, così. Però stanno facendo anche robe interessanti, tipo il trailer del soldato che parla con il linguaggio dei segni. Non so se l'hai visto, beh, un trailer recente di lore, diciamo. Un altro trailer di lore dove fa vedere la scienziata che ha creato appunto il rampino. Cioè, stanno facendo cose interessanti, carine, molto dall'Halo 3 come marketing. Ma Guardiani della Galassia, become Peter Quill, ma chi cazzo se ne frega? Cioè, nel senso... Ma basta! Cioè, per fortuna che poi il gioco non è così. Infatti il gioco è, sì, tu sei Peter Quill, ma... Il gioco è molto più sulla gestione dei guardiani, cioè su tutto il team, come è giusto che sia. Ma poi, scusa, non sono espertissimo anche qua di Marvel, non vorrei sparare stronzate, però mi sembra che tutta la branca dei Guardiani della Galassia è sempre stata un po', come dire, la parte più comica, no? Dell'universo Marvel, la parte più spalla comica. E quindi anche lì fare un gioco che dire puntare tutto sul diventa come Guardiani della Galassia, ho sempre sentita un po' tipo, perdonate la battuta, un po' da boomer, diventa come Aldo, Giovanni e Giacomo, una cosa del tipo... Era quello lì, cioè io guardavo i film dei Guardiani della Galassia più per riderci sopra un po' piuttosto che quelli un po' più, tra virgolette, epici dell'altra Marvel, così mi aspettavo un po' anche il gioco, che alla fine infatti funziona per quello, perché è un po' il, come dire, il clown, non il clown suona male, però come dire, quello divertente di tutto il gruppo, visto che di sicuro con Avengers non hanno Vabbè, non diciamo nient'altro, però sì, sì, non so, cioè, se ho fatto passare il punto, forse sì. Forse il punto è che è un gioco cazzone con personaggi cazzoni. Tu non bravissimo. È che vuoi, tu non vuoi essere quei personaggi cazzoni, anche perché hanno tutti delle storie di merda, nel senso che ogni personaggio di quel team ha traumi, storie tragiche ed è abbastanza un coglione, anche una come Gamora, anche se non ho da vedere. Cioè, boh, vabbè. Comunque, sì, sono contento, lo giocherò perché appunto i miei personaggi preferiti, cioè Gamora e Rocket, sembrano fatti bene, anche Groot non sembra male, quindi lo giocherò prima o poi. A parte questo, dicevo, ci sarebbe da parlare ancora di Activision Blizzard, ma sinceramente non ne ho voglia, non so se tu volevi dire qualcosa. Guarda, il punto è quello, cioè, forse... il fatto che non c'è più niente da dire ormai su Activision Blizzard, visto che... Cosa possiamo dire in più che non sapete già, è vero? No, ma più che altro anche perché è chiuso ormai la questione, tra virgolette. No, non è chiusa per niente, Marco. O almeno loro vogliono farti credere che sia un po' chiusa, diciamo, come questione, perché se non sbaglio sono arrivati a un accordo, no? I classici accordi da serie TV poliziesche, da Law and Order. Hanno promesso di essere più bravi con i loro impiegati, hanno tolto lo stipendio al CEO per un anno, quindi ben poca cosa. Qualche miglioramento di sicuro c'è stato per quei poracci che tutto il bene del mondo gli vogliamo, tutti andiamo i nostri thoughts and prayers ovviamente, però sì. Si avverte già da noi di qua, magari noi parliamo stando di qua, quindi che possiamo dire, però si avverte che c'è stato un pochino poco, la Blizzard l'ha passata un po' troppo liscia, almeno per ora. Poi non so se è successo qualcos'altro, io non sono ancora aggiornato, però... Qui. Vuoi aggiungere altro, Jacopo, o ti ho rubato la scena? Mi sono... cioè, basta. Però in tutto questo il remake di Bloodborne è vero, quindi... È reale? Sì, la cosa che a quanto pare è uscita la notizia è che quel trailer del remake, ovvero Bloodborne fatto con la grafica da PS1, è un progetto fan-made, vero, reale, che uscirà l'anno prossimo, quindi a posto. Ma reale vuol dire che lo hanno... autorizzato? Ah, cioè questa è una domanda, non chiedermi troppo qua. So che ci stanno ancora lavorando, ho visto la notizia ieri sera. Okay. Mi quindi stai dicendo che fra 6 mesi verrà cancellato per dare una bella lettera di cease and desist? Okay, probabilmente, oppure... cioè, in realtà lo possono... No. Cioè, non lo stanno facendo pagamento, chissà che cosa. Quindi... No, ma non c'entra nulla, cioè se vogliono... ti mandano una lettera automaticamente solo perché hai cercato di sfruttare il brand. Sì. Non c'entra nulla se ci puoi guadagnare sopra, basta che tu stia cercando di associarti in qualche modo al brand e ti cancellano dalla faccia della terra. In realtà, beh, questo lo sappiamo, se... posso dire, mi sorprende che non l'abbiamo già fatto, se stessimo parlando tipo di un fangame dei Pokémon o cose del genere. Però la From in realtà non sappiamo bene come reagirà ancora. No, ma non è la From, cioè proprio ogni... perché sono sempre gli stessi quattro avvocati, cioè tutte quante le aziende usano sempre quelli, che si mandano le lettere a vicenda, ed è solo un fatto di protezione, cioè se ci fosse un fan film di Bloodborne fatto gratis, non ci sarebbe problema. Se ci fosse... un fanfilm di Bloodborne fatto a pagamento tipo Kickstarter o cose, cease and desist. Se è un gioco, a priori devi smettere perché è un gioco, perché è già un gioco Bloodborne, capito? Se facessero un film ufficiale di Bloodborne con la licenza di Bloodborne e poi facessero un fanfilm di Bloodborne, allora ok, cease and desist, cioè devi smettere di farlo. Certo, perché puoi giocarci alla versione PS1 gratis se puoi pagare quella per PS4, giustamente. Ah, anche sì, questo è un altro discorso, beh. Ma a loro non interessa questo in realtà, ripeto, è solo un fatto di protezione di proprietà intellettuale automatica, non gliene frega un cazzo. Certo. Ah, peccato. Vabbè. Avrei voluto giocarci, chi lo sa, magari... No, magari magari li assumeranno, cioè nel senso faranno una cosa ufficiale, tipo... Sarebbe molto, boh. Sarebbe un momento di progresso anche sotto quest'ambito. Ma l'hanno già fatto in realtà per Sonic. Sonic... Ah, beh, sì, vabbè, ma proprio il Sonic Mania? Sì, però Sonic... questo è un po' diversa come cosa, oserei dire. No, no, però dico, cioè Sonic Mania era un progetto di alcuni fan, così è diventato un vero progetto dove tanta roba. Quello è stato un grandissimo passo avanti, complimenti alla Sega. Sto dicendo una Sega! Ok, non perdiamoci in altri discorsi politici, anche perché temo che la puntata di oggi, oddio, in realtà non lo so, non lo sappiamo mai quanto verrà lunga. Io temo molto, ma perché potrei avere un paio di cose da dire. Quindi arriviamo al dunque. Avete letto il titolo, presumibilmente. No Russian. Se ci fossero ancora dubbi, se non avete mai sentito questo nome, che è possibile. No Russian è il nome di una missione all'interno di Call of Duty Modern Warfare 2. Sì, scusate, un attimo di confusione con tutti i titoli della saga. Che è diventata particolarmente infame nel 2009. Per via degli argomenti, come dire, per via del suo contenuto, per quello che raccontava e per l'estrema violenza rappresentata. Nella missione, infatti, se non ricordo male, perché anche qua non sono espertissimo di COD, ma il protagonista praticamente si doveva infiltrare in una banda di terroristi russi e come specie di primo atto del loro attacco all'America andavano in un aeroporto a sparare letteralmente a tutti i civili che vi erano all'interno. Potresti intuire come la cosa abbia fatto un po' di scalpore in tutto, come dire, nei vari media. Se ne è parlata della cosa. E se, come dire, io me la ricordo un po' perché è stato quel discorso che ha informato un po' tutte le parti, anche quelle che non si interessavano della cosa, del fatto di come esistesse questa grandissima discussione che va avanti da praticamente da quando sono iniziate a uscire, questo grande dibattito sulla violenza nei videogiochi. E che noi, podcast di Focolare Elettrico, podcast di videogiochi e game design, non possiamo anche dire la nostra al riguardo? È certo che no! E quindi, come dicevo, con l'idea di fare un podcast in cui sicuramente a un certo punto avrei parlato di questa cosa, oggi siamo qui, proprio per dire la nostra su questo eterno tema della violenza nei videogiochi. Jacopo, vuoi aprire tu prima che io parta nella mia, non lo so, sproloquio? Ma... Volevo fare una specie di introduzione barra prego, contesto di base. Hai il microfono, hai il palcoscenico, luci. Luci. No, volevo dire solo questo. Noi due penso siamo d'accordo, adesso in realtà non ci siamo confrontati, ma a pelle direi che siamo d'accordo nel dire che è un argomento fallace, è una preoccupazione che cambia... come dire, cambia il soggetto, cambia la persona o la cosa da incolpare ogni 10-20 anni, perché può essere la musica rock, Elvis Presley, come può essere i Beatles, no, piuttosto che adesso è D&D, no, i film horror, qualsiasi, ogni 10-20 anni i genitori sono, diciamo, presi di mira da persone che vogliono monetizzare la paura dei genitori, monetizzare la preoccupazione che hanno per dei figli che stanno perdendo, piuttosto che educarli e interessarsi e capire ciò che piace ai loro figli e magari anche presentargli determinate cose, determinati concetti, determinati argomenti tabù, preferiscono chiudersi a riccio e piuttosto avere paura e dare la colpa a qualcos'altro. Questa è eterna come cioè qualsiasi cosa, cioè Leggetevi il resoconto, il motivo per cui hanno ucciso Socrate, e vedete che è lo stesso motivo, cioè Socrate era Modern Warfare 2, praticamente. Perdonami, non mi aspettavo la frase. Però sì, mi Qualsiasi trovi cosa, decisamente d'accordo. che leggermente va oltre ciò che è accettato dalla società di 30 anni prima, diventa una minaccia per la salute mentale dei bambini. Poveri bambini, qualcuno pensa ai bambini, no? Ora, però, voglio fare un attimo l'avvocato del diavolo, nel senso che è vero che ci sono 500 miliardi di studi che confermano che non c'è una correlazione fra la violenza nei videogiochi e la violenza reale. Questo è, come dire, accettato da chiunque faccia un minimo di ricerca, ma anche di ricerca interna, mettiamola così, no? Usando un minimo di buon senso, è facile capire come se un bambino ricorre alla violenza, comunque va a sparare dentro una scuola, sicuramente ha problemi più grossi di Mortal Kombat. Cioè, non è il problema l'esistenza di Mortal Kombat, ma c'è un problema pregresso, c'è un problema non trattato a livello di sanità mentale, a livello di educazione, a livello di preparazione sociale, per carità, non della famiglia, non solo della famiglia, cioè ci sono problemi a volte sistematici, molto complicati, che forse non andremo a esplorare in questo podcast di videogiochi, però dico, è riduttivo, ma pur accettando questa verità, mi rendo conto, faccio la parola del diavolo, che a volte invece possono causare questi problemi, cioè possono i videogiochi possono avere questo effetto di imprinting molto più che i film, molto più di un gioco da tavolo come può essere D&D, perché sei tu che attivamente devi fare, sei costretto a fare a volte cose orribili o hai l'illusione di non poter fare cose orribili. Questo è un discorso un po' più complicato. E non sempre i giochi sono responsabili nel farti capire le conseguenze di quello che hai fatto, nel farti sentire, nel farti provare delle sensazioni adeguate. È un problema molto più complesso della semplice violenza, secondo me. Perché sì, è vero che alcuni giochi, tipo, mi pare c'è un gioco che si chiamasse Hatred, che era molto, diciamo, aveva molte vibes da giovane americano incel neonazista, che era, secondo me, non solo un gioco di merda, ma anche, appunto, pericoloso sotto questo punto di vista. Sembrava partorito da un thread di 4chan, però ovviamente è una minoranza, no? Cioè, questi giochi sono difficili da, cioè non sono giochi che entrano nella discussione mainstream, tra virgolette, cioè di solito rimangono abbastanza di nicchia o addirittura vengono come si dice, vengono tolti dai negozi, non perché ci sia stato una lamentela da parte dei genitori, ma perché proprio vanno contro delle norme prestabilite da quei negozi. Quelli che danno più problemi, secondo me, sono i vari Call of Duty, GTA, eccetera, non tanto per la violenza, quanto per il fatto che la violenza spesso sia l'unico modo di interagire in quei giochi, e quando c'è un modo alternativo, c'è un tipo di interazione alternativa, viene ridicolizzata. Col passare del tempo, sì, sto parlando proprio di quello, di quel meme, col passare del tempo mi sono reso conto del perché fa tanto ridere Press F to pay respects. Per chi non lo sapesse, è un meme, forse abbiamo già parlato, è un meme Può che in realtà essere. non è un meme, è sempre in Call of Duty, è una scena dove tu sei a un funerale di un soldato e e appare a schermo la scritta premi F per porre per fare un saluto, insomma, per Sì, per dare mostrare rispetto, rispetto, sarebbe la esatto, per traduzione mostrare letterale. rispetto, sì. Ed è così strano. Cioè, io all'inizio pensavo, cazzo, hanno ridotto una cosa così, diciamo, importante ad un prompt. Hanno obbligato un giocatore a fare una cosa così ridicola da fare. Ma in realtà, col passare il tempo, no, fa ridere anche perché è una cosa che suona tantissimo con il resto del gioco. È una cosa super pregnante che dà tantissima importanza a questo soldato morto. E che è in completa opposizione anche con quello che tu fai nel resto del gioco con la F, perché nel resto del gioco tu usi la F per piantare il C4, cioè nel senso, per esempio, no? Cioè per interagire con un carro armato e farlo esplodere. Quindi è una cosa che, vabbè, ne parleremo nella rubrica finale, nella nostra rubrica Quasi preferita. un po', sai la cosa, vai talmente oltre che fai il giro su te stesso e quindi c'è un po' è più profonda di quanto non volesse sembrare. Era questo No, che non voleva sembrare, cioè, sì, è no. accidentalmente profonda, sì, però mi sembra che quando in un gioco l'unica maniera che hai, quando ti danno un martello tutto sembra un chiodo, no? Ne abbiamo Stavo parlato, per dirlo io, c'è cioè il detto proprio. c'è il detto, no? Anche in Zelda ne abbiamo parlato, se hai un comando per accarezzare il cavallo, accarezzi il cavallo, cioè nel senso sei portato più a fare cose che il gioco ti suggerisce di fare. Sei portato a fregartene di premere il grilletto quando il gioco stesso ti dice di fregartene se premi il grilletto, quando deumanizza l'avversario, quando continua a dirti che hai fatto bene a premerlo. Una delle scene più brutte, a me è piaciuto tantissimo l'ultimo Modern Warfare, ma una delle scene più brutte dell'ultimo Modern Warfare è quando premere il grilletto è stata la scelta giusta, cioè quando tu non sai. Se hai fatto bene a premere il grilletto su una persona che stava per detonare una bomba e il gioco immediatamente ti dice no, hai fatto la scelta giusta. Questa cosa è terrificante. E per quanto io sia pessimista e non voglia dare troppo valore alla vita in generale, perché la vita è sopravvalutata, però è l'unica cosa che abbiamo e avere giochi così famosi che continuano a snaturarla, a renderla poco importante, a renderla una cosa così alla leggera, per quanto poi facciano finta di fare satira come in GTA o fare filosofia come nelle famose frasi, citazioni di Call of Duty quando muori, capisco chi li critica, chi dice avete rotto i coglioni con questi giochi dove si spara e basta, ogni gioco si spara e basta, ammazzi e basta. Una meccanica facile, una meccanica immediatamente, come posso dire, accattivante, interessante, è una cosa che è facile da creare, no? Hai miliardi di esempi dove un gioco viene creato questo ostacolo immediato e semplice di un nemico da uccidere, no? E il modo per superarlo è sempre solo quello da uccidere, tant'è che i giochi dove non è così, dove hai l'alternativa o dove non hai questa possibilità, spesso vengono premiati come per la loro originalità, come Undertale o Outer Wilds. Quindi questo volevo dire. Cioè, volevo fare un attimo l'avvocato del diavolo per dire no, c'è un fondamento di, secondo me, di verità che spesso ignoriamo perché la voce più importante, più alta è quella di genitori assatanati. Tutto qua. Ora ti restituisco il microfono e poi andare con la Luci, programmazione. luci su di me, per Esatto. favore, a questo Tutto punto. qua. Guarda, la prima cosa che dico in questo caso è che forse abbiamo fatto male a non metterci più d'accordo per questa puntata. Perché in realtà anch'io ero venuto qua con l'idea di fare effettivamente un po' forse l'avvocato del diavolo, Oh no! o perlomeno di vedere le cose sotto un altro punto di vista. Come tu dicevi all'inizio, mi trovi in assoluto d'accordo nel dire che tutti quelli che additano i videogiochi come causa di violenza, come sono, come dire, la causa di problemi più grandi che magari qualcuno preferisce come dire, non guardare, no? Far finta di niente o comunque non prendersi la responsabilità sotto certi punti di vista, e allora trova il primo caprio espiatorio che riesce a trovare, in questo caso i videogiochi, e dice perché? Perché non può essere stato lui invece di me a fare questo? E questo, come dicevi tu, la storia è piena di queste di questi esempi. C'è stato il rock and roll, immagino che i filosofi, come dicevi, Socrate è Call of Duty. Questa è una frase che metterei da qualche parte scritta, perché questa bisogna ricordarsi. Questa ci prova l'episodio. Socrate Modern Warfare 2. Quindi anche lì io non volevo fare l'ennesimo puntata, essay su YouTube, video, lamentela di quelli che dicevano no, non hanno ragione, è ovvio che i videogiochi non causano violenza, che i problemi sono altro, eccetera, eccetera. Ci aggiungerei a questo punto, nel 2020, se uno non può metterci un grazie al cazzo alla fine di questa frase, vuol dire che siamo molto più indietro di quanto non pensassi. Quello che effettivamente, di cui effettivamente volevo parlare quest'oggi, era, come dire, era cercare di ampliare il discorso, perché alla fine, non ho fatto questi esempi a caso, ho cercato ovviamente su YouTube e online materiale, non so, per prendere ispirazione o copiare brutalmente, qualcuno potrebbe dire, ma è un altro discorso, per parlare di questi argomenti. E alla fine si tornava sempre lì, cioè che non è vero che causano violenza, questi problemi c'erano anche prima, si viene usato da, come dire, da fazioni politiche, religiose, chi che sia, per, come dire, argomentare le loro logiche un po' dubbie, eccetera, eccetera. Però comunque non si può negare, come faceva vedere anche Jacopo, che c'è violenza nei videogiochi. E non ce n'è poca. Ma andiamo con ordine, perché questa puntata, in realtà, è stata ispirata da un video che avevo visto qualche anno fa e che poi ovviamente sono andato a ripescare per il podcast, e che poi dopo, se Jacopo concorda, linkerei anche linkerei un paio di cose nelle informazioni di questo episodio, perché secondo me ci stanno. Il video si intitola The Unfulfilled Potential of Video Games. Non so dove mi è uscito. Bello. Sì, molto bello il video. The Pop Culture Detective. È un video del 2017. E in realtà anche lì non, come dire, il contenuto del video è importante fino a un certo punto, perché, come anche lui ammette, il parlare di videogiochi, il parlare di violenza, non sono esattamente gli argomenti di quelli che si occupa lui. Lui si occupa più di cinema e altri media, e quello dei videogiochi è solo, come dire, un video un po' atipico che ha deciso di fare per il suo canale, e che portava effettivamente lo stesso, praticamente, di quello che dicevo un po' prima Jacopo, che si sono viste già prima queste cose, sono state, i videogiochi non sono stati i primi ad essere additati, che molto spesso effettivamente quelli che dimostravano anche un'alternativa al appunto alla semplice violenza nel loop di gameplay venivano premiati o venivano considerati innovativi. E forse, io non so te, nel mio caso effettivamente la frase "se tutto ciò che hai è un martello, ogni cosa sembra un chiodo", io l'ho praticamente rubata effettivamente da lì. Non so Jacopo da dove l'abbia sentito. No, mi sa da lui pure, perché anche l'ho visto un video. E quindi, come dire, tutto questo. E arrivava a dire su come, come dire, come si potessero, come potrebbero essere interessanti certe alternative, cose del genere, che uno può essere più o meno d'accordo, come diceva anche lui prima, non è un esperto di videogiochi, alcuni proposte di gameplay che lui ovviamente metteva come una battuta, restavano battute. Non penso che effettivamente giochi in cui, vabbè, non troppo oltre, diciamo, si, come dire, argomentava, eccetera, questi stessi argomenti. Ma la cosa che mi aveva colpito un po' di più era come avesse fatto anche una piccola analisi guardando i giochi usciti alle 3 degli ultimi anni prima della pubblicazione del video, che era nel 2017, forse l'ho già detto, quindi qualche anno fa. ed aveva notato che i giochi annunciati alle 3 l'80% di essi circa ogni anno conteneva una meccanica di violenza che consisteva in un combattimento o comunque qualcosa di simile nel gameplay. E c'è stato quella analisi lì che mi ha particolarmente colpito, non so perché, ma mi è rimasta proprio impressa davvero tanto. E quindi, Jacopo, sono venuto un po' meno di nuovo al nostro giuramento. Quella promessa che ci eravamo fatti di venire preparati alla cazzo di cane per le nostre puntate, potrei aver infranto di nuovo in questo caso, potrei averla infranta di nuovo. Oh in no! Caso. Mi sono chiesto perché non usare uno degli strumenti più potenti che l'uomo abbia mai creato, si dice che Dio abbia costruito l'universo, usando i fogli di calcolo. E ho detto perché non fare anche noi una piccola indagine, investigazione. Intanto voglio dire, sono disoccupato, che problema c'è di tempo, ce ne ho da buttare. Oh no, cosa hai fatto? E quindi Jacopo, mi chiedevo, ma tu lo sapevi che nel 2020 sono usciti 462 titoli per le maggiori console, diciamo, sul mercato? Sono pochi, pensavo di più. Pensavo effettivamente, un migliaio. Effettivamente ci può stare come affermazione, e questo implica che devo fare alcune precisazioni su quello che ho appena detto. Questo numero, 462, è stato preso dalla pagina di Wikipedia intitolata Videogiochi nel 2020, in cui c'erano tutte varie analisi, c'erano i vincitori di vari premi. Vabbè, quindi diciamo videogiochi di una certa, esatto, rilevanza. Quindi quelli in questo elenco sono tutti quei videogiochi che sono stati ritenuti degni da Wikipedia o da chi l'ha scritta di essere inseriti, come dire, come titoli che hanno avuto un certo valore o comunque un certo seguito all'interno. Perché ovviamente se si volesse seguire qualsiasi titolo uscito dai più indie ai fan-made, così, sarebbe letteralmente impossibile, anche solo per tutti quei giochi app per cellulare che vengono fuori dalla Bielorussia e probabilmente installano qualche crypto miner sul tuo cellulare. Quindi, quando dico ci sono stati 462 titoli usciti nel 2020, mi riferisco ai titoli maggiori, quelli più importanti, dalle case di produzione più importanti. Poi va definita anche un'altra cosa. Ho notato che molti di questi titoli sono porting, remake, adattamenti in console, oppure giochi che prima erano usciti l'anno prima solo in Oriente, poi portati in Occidente, cose di questo tipo. Quindi anche lì non è purissima la lista. Ci sono giochi usciti forse l'anno prima o anche di più che sono stati riportati e distribuiti sul mercato e su altre piattaforme, in altre maniere, ma che comunque ho considerato validi, perché voglio dire, se l'hanno fatto nel 2020 vuol dire che c'era un interesse probabilmente del pubblico verso un gioco del genere nel 2020. Quindi mi sono detto che, anche perché, diciamo, mi sono detto che valeva la pena lasciarli nella lista, anche perché il contrario sarebbe dovuto essere io che andavo a spulciare ogni volta per capire quando cosa fosse uscito e mi odio fino a un certo punto, ma non così tanto. Tanto diciamo che già la statistica è sfasata dal fatto che non ci sono tutti, che sono gente che va su Ovviamente. Wikipedia a scrivere che cazzo è, quindi cioè, vai pure tranquillo. Ora, supponendo che questo insieme di titoli sia un buon campione da utilizzare in questa, diciamo, analisi. Cosa ho fatto io? Ho passato alcune sere di queste ultime settimane, e Jacopo qua si ricorderà un fantomatico messaggio sulla nostra chat privata che diceva: Jacopo, penso di essere pronto a fare la puntata sulla Oh violenza nei no, era questo videogiochi. che intendevi. Era quello, avevo appena finito, penso di averti scritto letteralmente 5 minuti dopo aver finito la ultima entry in questa lista. Cosa ho fatto io? Ho guardato in giro, ho guardato trailer, ho letto un po' pagine così, per cercare di classificare un po' questi giochi sotto tre criteri che mi sono venuti in mente, non so, così, un po' a istinto, proprio di pancia mi sono venuti. Il primo, ovviamente, è il criterio della violenza. Ho dato tre valori a questo criterio. No, sì o pseudo. Cosa voglio dire? Un gioco si meritava un sì sotto questa, diciamo, caratteristica, se effettivamente prevedeva come meccanica principale di gioco, principale, comunque una meccanica sostanziale, ecco, di gioco, un certo tipo di violenza. Questo poteva essere un combattimento, l'idea che, non so, far soffrire gli avversari, qualsiasi cosa che desse l'idea di distruggere, uccidere, mandare all'altro mondo se fossimo, come nelle puntate di Dragon Ball su Mediaset, tutti questi termini utilizzati che in poche parole significano eliminare qualcosa, eliminare, infliggere lo status di morte, mettiamola così. E c'era chiaramente questo aspetto nel videogioco, il videogioco si meritava un sì in questa categoria. Se il gioco aveva una cosa, come dire, parlava di queste cose, ma le venivano mascherate, comunque non erano proprio un'incitazione alla violenza più classica, ho deciso di mettere un altro valore un po' più versatile, chiamato pseudo. La prima cosa che mi era venuta in mente, infatti, erano tutti quei giochi di carte in cui ti dicono riduci l'avversario a 0 punti vita, che c'è una sottotono di violenza in quel caso, però non, allo stesso tempo non sei tu che vai lì e lo picchi con una mazza da golf. È tutto un po' semi-nascosto da queste immagini di pedine, di carte che si scontrano tra di loro e con i numeri che diventano sempre più bassi alla fine. E quello, nonostante ci fosse un tono di violenza, non potevo metterlo a livello di COD. Quindi ho deciso di trovare un altro parametro. Stessa cosa anche mi è capitato di, come dire, parametro pseudo è stato particolare, perché facevo sempre fatica un po' a capire dove metterlo. Perché per esempio in giochi di sport, tipo quelli della WWE, sono violenti? C'è un meccanismo di scontro, di lotta tra i giocatori, però allo stesso tempo è wrestling e non si può paragonare di nuovo allo sparare ai civili di COD. Quindi è lì. Quindi questo giusto anche per dire ci ho messo tutto me stesso, però non dico che non ci possano essere magari opinioni un po' sbagliate su certe cose. Sinceramente, dai, wrestling, anche boxing, anche un gioco di, che cazzo ne so, di fencing, cioè, se è uno sport o una cosa, scusate, questo vi spoilerò, forse un segreto di Stato, ma finta come wrestling, mio Dio, per me non lo considererei violenza vera, cioè, proprio, una pantomima, cioè, boh. Mm-hmm. Cioè, su quello mi trovi anche lì completamente d'accordo, però allo stesso tempo non lo so, forse era anche un po' di critica mia personale alla società, c'è comunque un inneggiamento alla violenza, no? Alla violenza intesa come il contrario di pacifismo, inteso. Ma il conflitto è inevitabile, renderlo comunque giocoso è parte del nostro istinto, farlo in maniera, certo, salutare, ma secondo me è giusto. Infatti, cioè, sto già anticipando cose di cui vorrei parlare più tardi. Parliamo del secondo, della seconda statistica. Qua, per mancanza di termini, io l'ho chiamata vittime. Perché un'altra cosa di cui non si parla mai, ma che secondo me potrebbe avere una rilevanza un po' più imponente in questo discorso è anche sì, tu mi fai picchiare, ammazzare delle cose, però queste cose cosa sono? Sono umani, mostri o entrambi? Questi erano i tre, diciamo, parametri che ho utilizzato io. Umani, ovviamente, quando chiaramente la violenza è rivolta a non, magari non umani effettivamente, ma sono quelli che rappresentano l'umanità, no? Il concetto del, magari tipo, quegli alieni che sono alieni, però sono molto simili agli umani, abbastanza da come dire, da avere relazioni col Capitano Kirk, quindi da definirli un po' come una metafora dell'umanità. Ecco, l'ho vista un po' così. Quando si mette il parametro umani, veniva usato quando chiaramente la violenza era rivolta a qualcosa che rappresentava l'umanità, in questo senso. Tutto il resto erano i classici mostri, no? Sono quelle cose, quelle creature che non hanno la forma da umano, ma che vengono, come dire, indicati come quelli che devono essere uccisi, quelli che devono essere distrutti, quelli che devono essere fermati, eccetera, eccetera. Molto semplice. Eccetto. Un'altra cosa che... perché qua ci tengo anche a raccontare un po' com'è stata l'esperienza di farlo. Mi hanno sempre messo in difficoltà tutti quei giochi di battaglie tipo aerei o navali, perché tu stai distruggendo aeroplani, navi, carri armati, ma dentro ci sono i piloti, che però non vedi mai. Quindi cosa devo mettere in questo caso? Sto facendo del male agli umani, anche se non vedo nulla che possa essere una rappresentazione di ciò, o sto semplicemente distruggendo dei veicoli? Questa è un'altra cosa che mi aveva fatto un po' riflettere durante tutto il processo, e ci tenevo non tanto a discuterne su questa cosa, ma a dirla qua, che anche lì può essere interessante. Io ho sempre usato in questi casi, sono cercato di rimanere coerente, ed ho usato sempre mostri come categoria, perché era quello, non c'era quella rappresentazione di umano che veniva distrutto, ucciso. E ho pensato fosse giusto così. Poi magari qualcuno la pensa in maniera diversa. Anche tutti quei giochi, ce ne sono più di quanti mi aspettassi, tantissimi giochi giapponesi di robottoni che combattono. Ti vanno menati, menano proprio con gli schiaffi duri. I mecha vanno tantissimo in Giappone, non ne avevo idea, cioè... L'avevo l'idea, ma non sapevo quanto. Adesso potrei anche quantizzare la cosa, più o meno. Molto bene. Terzo ed ultimo parametro, e poi arriviamo alla sostanza di tutto questo discorso. Terzo e ultimo parametro è una cosa che viene già più presa in considerazione, ed anche io ho cercato di farlo accorgendomi rapidamente che è una linea molto spesso estremamente difficile da definire, o almeno io avevo una grandissima difficoltà, ovvero il tipo di violenza. La prima che viene in mente è quella realistica. COD era realistico nella sua missione non Russian. I civili che urlavano, tizi che si accasciavano su pozze di sangue, eccetera, erano abbastanza ben rappresentati. Il contrario, proprio l'antitetico a tutto ciò, è la violenza cartoon, è il classico Tom e Jerry che si danno le padellate sulla testa e cose del genere. Ed anche qua ci sono videogiochi che si possono definire cartoon, tutti quei platform alla Kirby, alla Super Mario, dove salti in testa a un nemico e scompari in una nuvoletta di fumo. Non puoi definirlo come realistica violenza. Quindi ci stava bene il termine cartoon. Un'altra cosa però che mi sembrava che fosse una linea così marcata, questa, che a me non andava bene, perché sono pignolo purtroppo. Quindi ho aggiunto un terzo termine, ovvero lo strategico. Lo strategico è tutti quei giochi che hanno delle pseudo animazioni di attacco, i classici pensa ai primi Final Fantasy, quando c'è effettivamente un combattimento, però l'unica cosa che si vede sono gli sprite da una parte del team e dall'altra parte dei mostri che lampeggiano quando vengono colpiti e appare il 9999 sopra per indicare i danni. Quella non è cartoon, ma non è realistica. E ci ho voluto mettere qualcosa nel mezzo per, non lo so, per dare... Perché sono pazzo io, per dare tutto un po' più... rendere tutto un po' più pulito, mettiamola così. E come dicevo prima, una cosa di cui mi sono veramente accorto è quanto sia difficile, soprattutto adesso, ogni tanto riuscire a capire qual è il limite. Perché ci sono videogiochi strategici che però fanno tipo delle animazioni super realistiche di mostri che vengono abbattuti, no? Che si accasciano a terra, però poi appare il 9999 sopra e scompare in un'ovretta di fumo. Quindi quando li colpisci con la spada i mostri reagiscono, però poi scompaiono riducendo l'alfa a zero, evidentemente che scompaiono dallo schermo e non mostra la morte. Quindi quando è che si arriva fino a un certo punto? Ci sono stati un paio di titoli, soprattutto, non so perché ce l'ho, provenienti dal Giappone, che anche lì sfornano una quantità di videogiochi, chiamiamoli JRPG, appunto con questa meccanica di combattimento a turni. Io non avevo idea che ce ne fossero ancora così tanti in questi ultimi anni. Pensavo fosse un po' passando, ma probabilmente mi sbagliavo. Che però facevo veramente fatica, perché in un certo punto c'era il mostro che faceva oh, prima di morire, e altre volte no, e non lo so, giusto per dire anche lì ho cercato di essere il più coerente possibile, spero di aver fatto un buon lavoro. Detto questo, ed aver suonato un po' le mie campane, diciamo così, di aver cantato un po' le mie lodi in tutta questa sbaccata che ho fatto, perché dicevo, Jacopo, nel 2020 sono usciti 462 titoli. Mm-hmm. Ti sorprenderebbe sapere che il 65% di essi conteneva effettivamente una meccanica di violenza, una meccanica... Sono stati definiti come sì nella categoria violenza. E se vogliamo aggiungere anche quelli categorizzati come pseudo, arriviamo a poco oltre il 70%. Mm-hmm. No, non mi stupisce. Pensavo di più, in realtà. Devo ammettere che anch'io a questo punto... Non lo so, forse no. Ecco, forse questo effettivamente... Penso fosse giusto, in realtà. Perché io non so, c'ho questa, chiamiamola, speranza. Cioè, posso definire facilmente un tipo cinico, ma che comunque ogni tanto si attacca a queste strane speranze da rincoglionito. Che magari effettivamente... diciamo il tipo di videogame stava un po' cambiando anche. Ora, l'anno scorso è stato un caso molto particolare, c'è stato il Covid, sono usciti anche lì i giochi un po' più wholesome all'Animal Crossing New Horizon, hanno spopolato proprio per quello, perché la gente aveva bisogno di un attimo di rilassarsi, tra tutto quello che sta succedendo. E tra l'altro, me ne sono accorto poco fa, proprio poco prima di iniziare la puntata, senza manco farla apposta, l'anno scorso è uscito il remake di COD Modern Warfare 2, con ancora il remake della famosa missione Non Russian, giusto per dire. Mi ha fatto molto ridere come cosa, perché non ci avevo minimamente pensato a questa cosa. Io ci ho anche giocato, Marco. Ah, quindi sei violento adesso. Sì, proprio così, Marco. Ed in realtà uno split 70-30 non mi è dispiaciuto. Mi è sembrato ok come cosa, perché forse era anche di quello che volevo cercare di parlare oggi, ovvero abbiamo capito che la violenza fa parte dei videogiochi. Perché, innanzitutto? Beh, perché... Anche lì, come raccontano molti video essay su YouTube, nei giochi soprattutto c'è bisogno di un po' di, diciamo, narrativa, di storia, è il modo più E non c'è narrativa o storia se non c'è conflitto. E il modo più facile per creare conflitto è tramite la violenza, perché è subito, è quella cosa immediata che subito tutti capiscono, che mette in chiaro cosa hai da perdere in uno scontro, la tua vita, la tua salute, così, contro qualcosa che ti è chiaramente d'ostacolo nel tuo viaggio, nella tua storia, ed è perfetta, no? È lo strumento perfetto nel videogioco, nel gioco in generale, per rappresentare, no, il classico progredire, la progressione, il fatto di avere qualcosa in ballo, eccetera. E questo è chiaro, l'abbiamo capito. Ma allo stesso tempo c'era quella parte di me che, come dicevo prima, sperava che almeno negli ultimi anni stesse un po' cambiando il valore che diamo alla violenza. Ovvero che magari da glorificare cosa, ne abbiamo parlato anche qualche episodio fa con il famoso Six Days in Fallujah. Era giusto? Oddio, ho avuto un dubbio sul titolo, che è Six Days in Fallujah. Di come magari effettivamente nel 2020, a questa età del mondo, il fatto di voler vedere ancora la violenza, la guerra e tutto ciò che ne deriva come qualcosa di glorificabile, allo strenua dei grandi racconti epici di Socrate, il nostro antico Call of Duty. Mi è piaciuto troppo, quella me la faccio tatuare da qualche parte. Ecco, io vorrei che forse a questo punto ci accorgessimo che non è proprio così salutare, che non è proprio così una buona idea continuare a voler inneggiare alla violenza in questo modo. Ed effettivamente, per essere il 2020, un 70-30 era accettabile. Accettabile vuol dire che un 30% di tutto quello uscito cercava di dare un po' di alternativa, no? Cercava di creare qualcosa che non fosse il semplice prendi la pistola e spara, ma costruisci, come dire, trova qualcos'altro che possa far sembrare giusto e interessante la tua storia, no? La tua esperienza all'interno di un videogioco. E quindi, diciamo, come prima cosa direi che ci è andata bene, sta andando forse ok, poi o almeno così sembrerebbe da questa minima prima, non so, valutazione di tutta la cosa, perché ho calcolato anche gli altri parametri, ovviamente qui con i nostri fogli di calcolo si può fare di tutto. E se, chi lo sa, magari anche se casomai qualcuno che ci ascoltasse, sempre questa vana speranza, volesse saperne di più, io volevo anche mettere disponibile questo foglio di calcolo pubblicamente, visto che... Ma intanto potresti Google metterlo per me, visto che... Sì. Non sì, aspetta perché sto finendo, voglio fare un discorso, poi ovviamente ne farò, ti passerò anche il link dopo. Non so, diceva appunto, quali altri, quante altre informazioni si possono avere da questo, per esempio, dei videogiochi violenti, se ti interessa, il 45% di questo 65% erano realistici, o almeno io li ho considerati sufficientemente realistici da... No, aspetta, che cosa intendi come percentuale, scusami? Sì, vuol dire che di questo 65% di tutti i giochi usciti nel 2020... Quindi diciamo, di questi 300 giochi, una metà sono realistici? Quindi più della 50. Metà. No, scusami, mi sono spiegato male. Allora, di tutti i giochi usciti nel 2020, il 45% ha violenza realistica. Ok, ok. Beh, questo... Questo già è un pochino più alto di quello che mi aspettassi. Cioè, sì. Un po' sì, anche a me. Perché in realtà, come dicevo prima, molte di quella realisticità... Forse sono stato un po' pesante anch'io nel giudicarla, però c'erano quei videogiochi che dicevo prima, tutti quegli strategici che non si limitavano a far scomparire il mostro, ma volevano anche che far vedere come i tuoi colpi facessero male alle creature, come riuscissi a non so, far esplodere per bene tutto quello che avevi di fronte. Si scende poi al 13% sugli strategici e praticamente il 6,5-7% di cartoon. Quindi, non lo so, lì è ancora troppo... C'è da dire che effettivamente forse... sono ancora tanti quelli realistici, come dicevi tu. Inteso che non è solo una semplice... non è violenza solo per creare conflitto a volte. Ti viene anche da pensare che ci sia un minimo di interesse nel voler rendere vera tutta la cosa, nel voler rendere tangibile tutta questa violenza che viene usata in questa maniera per creare più pathos, per creare più interesse. Quando è che anche lì si ferma il semplice realismo per argomentare una storia e diventa solo, come dire, quasi un feticismo il vedere i corpi che esplodono? Certo, ovviamente adesso sto esagerando la questione, non penso ci siano stati troppi giochi di questo tipo l'anno scorso, però è difficile anche lì capire quanto... quando si salta la linea oppure no. E come puoi vedere, alla fine non so bene cosa mi aspettassi da questa analisi di mercato, se non giusto qualcosina da cui trarre conclusioni. Ed ero effettivamente, alla fine avevo fatto tutto questo un po' perché forse questo effettivamente è un mio feticismo, quello dei fogli di calcolo. Ma poi volevo sentire anche la tua queste opinioni, o vedere se tu magari avevi domande su altre statistiche, o che magari riuscivo, se mi ricordo come si usano le pivot table su Google Sheet, a calcolarti in diretta. Ma non ho molto in più da dire. Cioè, alla fine, in quel filmato, anche lui penso che a un certo punto ne parli, cioè del fatto che magari alcuni di questi giochi dove appunto la violenza è utilizzata per raccontare la storia, per creare il conflitto, spesso la violenza stessa è appunto catartica, è una cosa tipo come in Doom Eternal, no? È un po' come ascoltare la musica metal, nel senso che il gioco ti sta facendo l'effetto opposto, ti sta calmando, no? Cioè, nel senso, almeno questa è la mia esperienza, ci sono alcuni tipi di, diciamo, di violenza o di cose che vengono associate alla violenza che in realtà hanno un effetto calmante, non un effetto catartico, tipo Tim Tarantino, cose del genere, vabbè. Però ci sono anche giochi che la usano per parlarne in maniera critica. Cioè, è un po' come... cioè, è difficile da mettere in una statistica perché ci sono questi, diciamo, outlier, diciamo, tra virgolette, che tu potresti categorizzare come, ah sì, questo è un film violento, ma allo stesso tempo è un film che parla di violenza, no? Nel senso, American History X, cioè se tu apri Netflix, fai una categoria di tutte le serie TV, di tutti i film dove c'è la violenza, dove finisce American History X? Tra l'altro non so neanche se è su Netflix. Cioè, dove finiscono delle serie TV che proprio parlano di violenza, dove parlano di queste... Assolutamente, ma infatti anche lì ho cercato di fare attenzione a limitarmi a parlare di violenza solo quando era il giocatore a fare violenza, perché questo mi sembra ne parlasse anche nel video che citavamo prima. Di fare attenzione, ho notato che c'erano anche, non molte, ma alcune, per esempio visual novel, che raccontavano, che erano tipo romanzi gialli, intesi, si parlava di violenza, omicidi, e tu dovevi risolvere questi strani avvenimenti. Anche qua, molti più titoli di quanti non pensassi ce ne... E per esempio quello non l'ho, ma categorizzerei mai come videogioco violento perché non incita il giocatore a fare violenza. E quindi sì, ci può stare questo aspetto, questo, bisognerebbe andare ancora più in profondità, tu dici. È proprio quello che, non so, cercavo di dire, quando è che, ok, io chiedo al giocatore di fare violenza, di essere violento in un certo modo all'interno del gioco, ma tutto questo si ferma alla violenza un po' scema e senza senso solo per, come dire, solo per puro godimento di Doom, in cui che non c'è un carico morale, sei tu che uccidi mostri a colpi di rock and roll, anzi, colpi di metal, ed è figo solo per quello, non è che ti vai a fare segoni mentali del tipo, ah, ma aspetta, ma questi mostri sono forse una metafora di questo tipo di persone che non riesce a vedere. Direi di no. Magari è diverso da, non so, un altro gioco che mi è venuto in mente potrebbe essere Wolfenstein, dove, come dire, il tema della violenza e soprattutto di rappresentazioni di un certo tipo di, come definirli, gruppo di una certa ideologia. I nazisti, Marco, puoi dire nazisti? Cioè, Possiamo dirlo, non siamo su Twitch d'altronde. Do non dopo, dove capisco. la rappresentazione dei nazisti ha già fatto anche molto scalpore. E lì quindi forse, come dire, anche lì, però, vedi, ha fatto tanto scalpore, però non si può dire che il messaggio del gioco fosse che bravi i nazisti, ma proprio il contrario, tu No. sei lì in giro per spaccargli la faccia, quindi quando è che si ferma? Quanto in profondità bisogna andare a questo punto per cercare di capirci qualcosa? Io vorrei sperare, a questo punto, nonostante non abbia potuto per mezzi pratici, perché voglio dire, fino a un certo punto, poi mi rompo le palle anch'io, fare un deep dive per capire come fosse in ognuno di questi giochi, non c'è la categoria moralità. Ma voglio sperare che la maggior parte di questi giochi o utilizza la violenza come puro mezzo alla Doom, no? In maniera stupida, ma solo perché fa ridere, anche un po' comica a volte, per creare un po' di cosa, o che comunque denunci il fatto che magari ti dà solo la violenza come possibile risoluzione, ma comunque cerca di mettersi un minimo in discussione sul fatto che la violenza non è l'unica risposta. Per esempio, voglio dirle, ne hanno parlato già tutti, anche l'ultimo The Last of Us che è uscito, non mi ricordo se era del 2020 o del 2019 adesso, però già quello per dire, si sono lamentati in tanto che c'è un po' di dissonanza tra ludonarrativa, sempre per citarla, tra il fatto di andare in giro a ammazzare tutti e poi dire, ah no, alla fine la violenza non è la risposta. In realtà no, perché, vabbè, poi No, non posso vabbè. parlare. Non posso parlare. Fermami, trattienimi, Marco, sto. Ok, vabbè, non voglio dire anch'io perché non l'ho ancora giocato, però per dire, Io li picchio questo, scusami. ok, c'è la violenza, però almeno si mette in discussione, quindi è già un passo avanti. Questo era quello che volevo sperare con questa statistica. Volevi aggiungere altro in questa cosa? Che non sia di The Last of Us? Merda. No, io veramente ne ho le palle piene, scusate il francesismo. Allora c'è ancora Questa gente una che. cosuccia io, Jacopo, se mi posso permettere ancora. No, no, dicevo di The Last of Us, non Ah, di. No, scusa. no, no, dicevo di gente che critica The Last of Us, ma abbi. Basta, avete Ok. rotto il cazzo. Comunque. Però era un valido esempio, secondo me, ci poteva No, no, no, stare. ci sta. Mi piace che il discorso si stia evolvendo. E ne parlerò meglio nella rubrica finale, si stia evolvendo nel parlare delle conseguenze di questa scelta di facile conflitto, perché i giochi più famosi, che più vendono al momento, che più passano per il ah, sei un vero intenditore, allora se ti piacciono questi giochi tipo Dark Souls, nonostante siano o anche vabbè, tutti, Halo Infinite, Final Fantasy, cioè tutti sono giochi che, funzionano a livello base per chi non gliene frega un cazzo di questi temi, funzionano perché sono immediatamente fruibili, immediatamente appunto divertenti, ti ingaggiano comunque la skill, la tua capacità, la tua intelligenza, i tuoi riflessi e tutto. E quindi se sei una persona che non ha pazienza o interesse, ti prende subito lo stesso. Però mi piace che comunque la tendenza sia, anche per quei giochi, cercare di dare qualcosa di più. Qualcosa di più importante, di più profondo a livello di lore, a livello di commento stesso sulla violenza. C'è sempre, ultimamente c'è sempre, anche in giochi come Call of Duty, paradossalmente, è un motivo per cui mi è un po' dispiaciuto Modern Warfare. Il fatto appunto che avesse questa, come posso dire, questa fretta nello smontarsi da solo, nel cercare di non diventare troppo politico, hashtag political, perché aveva delle buone potenzialità. Non è facile, non è facile perché appunto non vuoi perdere quella immediatezza, no? Non vuoi perdere la facilità che hai nel riconoscere, ah, questa è una minaccia, devo superarla. Questa è chiaramente non solamente una minaccia per me, per il mio avatar, per il mio personaggio, ma per un qualcosa a cui tengo io, a cui tiene il mio personaggio, no? Quindi è qualcosa che anche il tizio, quello lì, Pop Culture Detective, diceva, che nel senso non è che tutti i giochi devono diventare pacifisti per forza dove non Certo. c'è violenza, però è bello avere sempre sullo sfondo quest'idea, quando è ovviamente non dissonante, come diciamo, dissonanza, stavolta dissonanza tematica, Ci sta. non scamofismo. E quindi forse siamo noi, speriamo, in questa evoluzione. Però allo stesso tempo è comunque un po' difficile parlarne, perché alla fine l'evoluzione è una cosa che si vede nel tempo. Io qua ho dato i dati dell'anno scorso, come si può, diciamo, fare un discorso completo. Quindi è stato un po' noi che cercavamo di azzardare. Però a questo punto ti vorrei anche chiedere, Jacopo, tu lo sapevi che nel 2010 sono usciti 529 titoli per le maggiori console? Non ti ho Così. perso, cosa hai detto, scusami? No, dicevo, mi chiedevo se sapevi, Jacopo, che nel 2010 sono usciti 529 titoli per le maggiori console. Ok. Hai fatto non oh no, E mi sono detto, cioè, qualcosa. come dicevo prima, come si fa a vedere un'evoluzione se non si considera l'asse temporale del tempo? Perché se no è solo un'immagine del 2020. Oh no. E mi sono chiesto, 10 anni prima, cosa stava succedendo? Siamo nel 2010. Non so quale American Idol ci fosse, ma posso dirvi che è l'anno successivo all'infame missione del Non Russian, da cui prende il titolo questo episodio. E quindi ti sorprenderebbe sapere che in questo caso il sì nella categoria di violenza è ammontato solo al 53,5% dei videogiochi usciti e che se includiamo anche lo pseudo arriviamo a malapena al 65%, quello del praticamente che è solo quello dell'anno scorso di sì pieno, non pseudo. C'è una considerazione da fare. Hai preso un anno dove molti giochi sono stati rimandati, che è il 2020, un anno di pandemia. Hai preso un anno che è post Dark Souls. È post, cioè, è Soprattutto anche post. post di tutta quella polemica del 2009, che diciamo prima di No Russian, che ha fatto parecchio Sì. scalpore. Molte case di sviluppo, secondo me, si sono un po' cagate sotto di tutto quello che i vari gruppi dicevano della cosa. Quindi Quindi di sicuro è una, come dire, sono dati un po'... E soprattutto ora io... questo 5% di differenza o 10% di differenza è anche un 10% di differenza di quantità. Più giochi bravo, consideri... Bravo, perché... Perché più giochi consideri e più sono giochi indie che hanno gameplay e storie alternative. No, ecco, questo volevo dirlo perché tra tutta questa follia ci sono anche degli aneddoti interessanti. Nel 2010 tu non hai idea di quanta merda è uscita. Noi ci lamentiamo adesso, tu non hai idea di quanta merda è uscita per le varie console. E con merda mi riferisco a tutti quei giochi che avevano le licenze di fare tipo i giochi dei programmi di Disney Channel. E quindi avevamo i Jonas Brothers fanno questo, c'era iCarly, gioco per Nintendo DS. Tu non hai idea di quanta roba di quel genere. Io sono impazzito a vedere quelle cose. Posso dire una cosa? Allora, io voglio bene ad Asobo, gli voglio ancora bene, ma sono contentissimo che abbiamo smesso di fare i tie-in. Cioè, Asobo Studios ha fatto tipo il gioco di Ratatouille, il gioco di Toy Story 3, mamma il gioco di Wall-E. Sono contento che non è più necessario fare un cazzo di tie-in quando esce un film. Quindi, se non c'è stata un'evoluzione nel mondo della violenza, almeno in questo, grazie signore. Cioè, dateci più giochi violenti e meno tie-in. Mamma mia, non hai idea. Allora, come effettivamente facevi notare, le due statistiche sono molto un po' cazzone così, perché... Ho preso l'anno scorso perché era l'anno scorso, era il 2020, ho detto era il 2020, un bel numero tondo, facciamo 10 anni prima, buttiamo tutto insieme e voilà le statistiche. È un po' preso la cazzo, ci sarebbero dovuti essere tutti gli anni in mezzo, ma non ero così pazzo. Una cosa che ho notato però lì, alla fine posso parlare un po' solo anch'io perché su quello che ha fatto... ha raccolto i dati. Mi dicevo molti giochi imbarazzanti, ma veramente tanto imbarazzanti. Io adesso non so neanche, posso leggervi la lista dei 529 titoli, però ce ne sono alcuni che mamma mia. Va anche detto poi anche che ci si erano notato molti titoli, molti più titoli tipo per iOS e Android, perché era un po' quel periodo in cui le case volevano ancora investire sui titoloni, no? Sai, i classici Infinity Blade, con le vero, cose lì, quelli grossi per cellulare che poi non si cagava assolutamente nessuno, perché... No, io ci ho giocato, era... Sì, no, nel senso, anch'io ci ho giocato a quegli anni lì, ma poi dopo è morto tutto quando sono arrivate i... quando c'era anche i caricapo. Beh, non voglio fare altri discorsi. Però per dire, c'era tanta roba in più su cui scavare. È stato anche, credo, uno degli anni del Kinect. Infatti c'erano tanti giochi tipo Kinect o PlayStation Move, di cose del genere. Quindi anche quelli un po' di nicchia come Kinect Pets o qualcosa da iPad, qualcosa del genere. Insomma, c'eri tu con il Kinect e la creatura virtuale che coccolavi facendo finto, toccando l'aria perché non avevi niente. Quindi anche quello di sicuro ha miscalcolato la statistica, inteso. C'era talmente tanto di questa roba che nel tutto nel mezzo i giochi violenti sembravano un po' di meno. Ma non perché ci fossero grandi alternative alla violenza. E questo penso sia uno dei punti importanti di tutto questo. C'erano molti più giochi, tra virgolette, non violenti, ma che se poi non giocava nessuno, o che se finivano tutti in quei cestelli a un euro dei Media World, c'era un motivo, era perché non erano vere alternative ai giochi più interessanti che ancora utilizzavano meccaniche di violenza un po' più centrali in tutta la storia. E quindi non so nemmeno io, come dicevo prima, dove voglio arrivare con queste statistiche, ma alla fine penso che le statistiche siano belle anche solo perché sono statistiche, inteso... Io ti dico che è questo, poi tu arrivi alle tue conclusioni, sappiamo che è così, non possiamo ancora, diciamo, appena un paio d'anni non si può dire più di tanto su un certo argomento importante come questo, però intanto abbiamo questi dati, quindi non, e i dati sono sempre una base solida da cui partire. E quindi anche se i numeri magari non sembrano dire la stessa, non sembrano dare l'apparenza di un'evoluzione, io non penso che la cosa vada in contrasto con quello che abbiamo detto. Cioè, secondo me l'evoluzione c'è stata, perché di quel 30% magari che era un po' leggermente di meno di quell'anno lì, in quel 30% c'era un gran bel più di roba che poteva interessare la gente, secondo me c'era già un po' più di sviluppo, anche solo. Ma no, Animal Crossing non posso dare un singolo esempio per tutta la cosa, però. Era giusto per dire. Non, ecco, forse era giusto per dire, non c'è più tutto quel pattume che andava a occupare quel 30% con giochi di Disney Channel, e quindi vuol dire che in quel 30% era un 30% vero di qualche game developer vero che è andato a chiedersi: ma come possiamo creare un gioco non violento che possa risultare però interessante. E questo di sicuro è già un miglioramento di per sé. Tu che dici, Jacopo? Ma è un miglioramento, secondo me, lento, non è così, non è stato così immediato, ancora in corso. Però sinceramente è vero che ci sono tanti più giochi di merda, tanti più asset flipper, tanti più asset flipper, scusate, è quando uno praticamente ricicla pezzi di giochi tipo presi da Unity per farci un gioco che sembra nuovo ma in realtà non lo è praticamente una frode. Ci sono tanti più, appunto, frodi, giochi asset flipper, giochi cloni, giochi per telefoni inutili. Ci sono tanti giochi che, per quanto tu possa, diciamo, volerli considerare, perché in mezzo ci sarà sicuramente qualche tentativo onesto di qualche studio indipendente, vengono un po' persi in questo oceano di titoli, appunto. Vengono chiamati shovelware, no? Perché letteralmente vengono rilasciati a palate centinaia e migliaia al giorno. La cosa che secondo me va a migliorare è la qualità media di quelli che salgono in superficie. Cioè, ci sono veramente. Leggevo un giornalista che lo fa di mestiere, cioè lui di mestiere deve giocare e recensire giochi. E lui ha detto: quest'anno veramente qualsiasi cosa che ho giocato solamente perché mi sembrava visivamente interessante o concettualmente interessante, è stato stupendo. Cioè, non ho beccato una cagata colossale, neanche una. Il gioco peggiore che ha giocato era una piccola delusione, ma niente di più. Quindi, per me questa è una vittoria, nel senso, se una persona che magari, vabbè, professionalmente è abituata a mettere da parte la nostalgia, a mettere da parte tutti quei bias che ci portano a dire: ah no, io questi giochi non li gioco perché non fanno per me, è abituata magari a spaziare un pochino di più. Se una persona del genere riesce a trovarne così tanti in un anno, tanto che non ha bisogno di, appunto, toccarne neanche uno brutto, cazzo vuol dire? Cioè, è una buona cosa, vuol dire che il panorama indie sta diventando sempre più, diciamo, polished, cioè sempre più rifinito e giocabile e indistinguibile da quello, diciamo, con un budget più importante, e il panorama, diciamo, AAA, AA, titoli più importanti anche lì stanno migliorando in media. Poi ovviamente le cagate ci stanno sempre, però è una cosa che va in controtendenza con l'impressione che abbiamo noi di: ah, tutti i giochi fanno schifo adesso, no? Cioè, tutti i vari Avengers, piuttosto che World of Warcraft, eccetera, no? Abbiamo questa visione pessimistica così. Non è cinico quanto no. Esatto. No, non è che non è. Cioè, magari è No, cinico, sì. però, capito, come posso dire, ha alla mano dei dati che gli dicono il contrario, mettiamo così. Assolutamente. Come ce li abbiamo noi. Come ce li abbiamo, no? Assolutamente, questi bellissimi dati. Una cosa che effettivamente guardando i dati qui in questo momento, notavo era che effettivamente ci lamentavamo prima del... io mi lamentavo un po' prima del realismo, che si aggirava intorno al 45-46% del 2020. Ed avevo un po' ragione, perché se guardiamo sempre i dati del 2010, invece, i giochi che ho ritenuto realistici erano quasi, quasi precisamente un 10% in meno, erano intorno al 36%. Ora, va anche detto che la tecnologia è cambiata. Magari nel 2010 non tutte le case si potevano permettere stesse pipeline di sviluppo e quindi animatori specializzati in certe cose, nel fare animazioni di nemici che morivano e cose del genere, che adesso magari anche per, come dire, un qualsiasi animatore di adesso probabilmente ha più esperienza di un, anche forse di un professionista di 10 anni fa. L'ho sparata molto grossa questa, però sì, diciamo, con l'evoluzione dei tool, l'evoluzione di tutto quanto, c'è stato comunque una tendenza al voler essere realistici. Non ci si accontenta più del vabbè, la realizza cartoon è un po' un caso a sé stante, anche lì c'è un se non... aspetta, fammi controllare, sai che in realtà la violenza cartoon siamo più o meno lì come stessi valori, però tra strategico e realistico stanno tendendo tutti molto più al realistico. Ok, e questo è, non so, è interessante, perlomeno fa fa vedere che almeno c'è una certa logica forse in quello che ho fatto e non ho buttato via le ore. Questa qua, così, vuol dire che comunque il poter mostrare tutta questa violenza ha comunque ancora un certo interesse, perché ci puntano così tanto. Secondo me a volte anche in maniera proprio gratuita, ma quello più un parere mio personale, non voglio stare a dire cose. E beh, come dicevi tu, però, no, non lo so, io avevo detto più o meno tutto quello che volevo dire su questi 2 anni. Se tu hai qualcosa da aggiungere, perché altrimenti un'ultima cosa lo dicevo, poi potevamo andare oltre. No, cioè, non so, possiamo perché andare oltre. Mi faceva tanto riflettere il fatto che era il 2010, e noi adesso magari non gli abbiamo dato il peso che meritava, però quella storia del 2009, del non Russian, della missione, è stata pesante. Non siamo noi che stiamo, almeno non penso che siamo noi che stiamo ingigantendo la cosa per solo per dare un senso alla puntata. È stata vera quello che è successo. E non lo so, è quello lì che mi diceva anche che effettivamente come dati erano un po' sballati molto per via di tutto quanto. Di tutto quello che era successo e di come non fosse una visione del tutto chiara e tutto quanto, e non so, forse mi aveva lasciato un po' insoddisfatto anche per quello, mentre lo stavo facendo, che non si potesse avere una visione più, non so, anche più profonda di tutto quanto. Bene, direi che ci siamo, Jacopo, così. Solo un'ultima cosa per andare avanti. Ah, ok, va bene, dimmi. Tu lo sapevi che nel 2000 ci sono usciti 137 titoli per le maggiori cose? Oh no, ma perché? Questo prometto è l'ultimo anno, però ho detto, che senso aveva fare 2 anni? Doveva... Sono almeno 20 anni di storia, si possono guardare un attimino. 2020 non c'è ancora stato il crollo delle Torri Gemelle, era come dire, forse stato uno degli apici di ottimismo raggiunto, la sparo grossa anche qui, ottimismo raggiunti dall'umanità prima appunto di tutta la storia dell'11 settembre, poi avevamo appena finito, ci stavamo lasciando indietro il vecchio millennio e stavamo entrando in quello nuovo prima che andasse tutto un po' a puttane, e eravamo ancora tutti contenti, e anche i giochi, e lì è stato più un quasi... Mi sono pentito per altri motivi di averlo fatto. Lì si parlava di arcade, erano giochi che uscivano per arcade, per il Genesis, per la Sega Genesis e cose del genere. Mamma mia, quanto sono vecchio. Però sì, ho voluto fare un terzo anno. Uno, perché tre è il numero perfetto, 2020, 2010 e 2000 suonava tanto bene come cosa, e poi erano solo appena 137 titoli in confronto ai più di 500. Ma infatti secondo me è proprio anomalia statistica, vai, dici le percentuali, ma secondo me non avranno molto peso. Non avranno molto peso, però in realtà se ci pensi è un'immagine molto più pura del 2010, perché ti posso assicurare che se nel 2010 c'era tanta tanta merda, nel 2020 non c'era niente che non fosse considerato, che io considererei ancora un gioco in tutto e per tutto, cioè non c'erano... Nel 2000 dici? Sì, scusa, nel 2000 non c'erano quelli che... Ho capito, ma 100 giochi non sono 400 giochi. Lo so, giochi. 137 giochi per la precisione, se ti interessa, il 67.15% hanno meritato un sì, e se aggiungiamo anche quelli che hanno meritato uno pseudo, arriviamo a circa intorno all'80% dei giochi. No, cioè, ti ho detto, non è rilevante questo, mi spiace. Non è rilevante. Secondo me sono troppo buoni. Anche perché ho notato molto che c'era una grandissima... andavano davvero tanto di più i platformer, e già quelli hanno fatto... hanno sparato altissimo tutta... ma poi dello pseudo con tutta quella violenza. Non c'era Wikipedia ancora, Marco. Non c'era Wikipedia, cosa vuol dire? No, non c'era Wikipedia, cioè non c'era gente che si mette lì a... non c'è gente che si mette lì a scrivere questo famoso gioco Gex the Gecko. No, vabbè, Gex the Gecko è famoso, però dico questo gioco che non gliene frega un cazzo. Dici, nessuno. Probabilmente la pagina videogiochi nel 2000 di Wikipedia non è così completa come dovrebbe essere. No, non è completa neanche rispetto al 2010, nel senso proprio non... dico, non era ancora presente la pagina. Giochi che non hanno rilevanza ora non vengono creati lì, cioè non vengono fatte delle pagine lì. Ma non esiste proprio una citazione, una fonte da citare spesso, cioè sono giochi persi nella storia per sempre alcuni, quindi proprio direi di non considerarla come... Però vabbè, ok, ci sta, mi piace che effettivamente i platform andassero di moda e che fossero così violenti, mi piace molto come... No, in realtà non lo erano più di tanto, perché era sempre quella... io li ho sempre classificati un po' come pseudo, perché era sempre... il saltare in testa una creatura per poi farla scomparire in una nuvoletta di fumo. Però anche qua, se posso fare giusto due considerazioni, poi dopo veramente la chiudiamo, perché anch'io spero ci sia una fine alla mia follia. Come dicevo, lascerò ai posteri il foglio di calcolo nel caso qualcuno poi volesse... guardarci un'occhiata. La violenza realistica in questo caso è più alta, con un 54, anzi quasi 55% rispetto al 2020, quindi giusto per dire che chi lo sa, forse, non lo so, traete nelle conclusioni che volete. Però mentre la violenza cartoon anche qua è molto più alta, è quasi il doppio degli altri. Aspetta che vado a... cosa ho fatto? Ho cancellato cose che non dovevo cancellare. No, non mi rovinare i dati, ok. Dicevo, la violenza cartoon, sì, si aggirava sempre più intorno al 6-7% tra 2020 e 2010. Nel 2000 è intorno al 13%, quindi per dire, era tanto molto più cartoon, ma allo stesso tempo più i giochi realistici erano più realistici. Ma non aveva senso, come ho detto, quindi... non ha molto senso. Non ha molto senso. E un'altra cosa che ho notato, così, poi sì, l'ho finito veramente, è che non ne ho parlato prima, ma se guardiamo tutti e tre gli anni che ho analizzato, tra virgolette, la percentuale, come dire, le vittime, la percentuale delle vittime, ovvero le varie categorie di vittime tra mostri umani o entrambi, in realtà sono rimasti abbastanza stabili. C'era sempre un 35, facciamo da un 30-40% mostri, un intorno dal 10 al 20 di umani, e poi vabbè, il resto era era entrambi, cioè nel senso, per dire, sono diverse, ma sono rimasti vicini, non ci sono state oscillazioni pazzesche da nel 2000 uccidevamo solo mostri, nel 2020 solo umani o cose del genere. Non so, l'ho trovata interessante come cosa, più o meno siamo rimasti circa lì. Forse l'unica cosa è che con l'andare avanti è aumentata un po' di più la violenza contro gli umani, ma perché è aumentato, secondo me, tantissimo, ho notato, il multiplayer, inteso player versus player, con giocatore, battle royale, cose del genere. Quindi, grazie per essere stati partecipi della mia pura follia, non so perché, ma ci tenevo a farlo, giusto per dare una parvenza di senso alla mia vita, queste piccole analisi. Come dicevo, metterò il foglio di calcolo disponibile a chiunque sia curioso, magari può aggiungere altri anni se lo vuole. E Jacopo, prendi di nuovo tu il microfono. Guarda, penso che sia dobbiamo portare la puntata verso una fine, altrimenti lo spedisco, mi sa, in Cina, così non lo trovi più, così te lo rubo per sempre. No, direi che ci siamo, è il momento che tutti aspettiamo. Get you waiting, huh? Ed eccoci al momento definitivo di questa puntata finale, finalmente. Ne abbiamo già parlato, si parla di come sparare ad un boss pezzo di merda e poi il gioco ti fa sentire in colpa. Stiamo parlando di... Ma tu, aspetta, però bisogna dirlo, Metal Gear, che è una saga che è nata negli anni 90, e tu lo sapevi che nel 1990... No, sto scherzando, vai avanti. Marco... Scusa, sto scherzando, cioè... Spezzo le braccine, top track. Allora, no. La cosa che ha detto Jordan Voight Roberts, appunto, quando ha fatto l'intervista con Kojima parlando del film, film che ancora non si sa che cazzo di fine abbia fatto, porca troia, comunque diceva che la cosa che lui apprezzava molto di tutti i giochi della saga di Metal Gear era... il fatto di far pisciare sotto gli avversari quando gli puntavi una pistola, no, non è vero, era il pacifismo, che è quasi, diciamo, in antitesi, è quasi un ossimoro, perché il gioco ovviamente è un gioco di guerra, ci sono armi, si dissonanza, risolvono... no, scusa, dissonanza no, però non ludonarrativa, è un gioco dove c'è un pochino forse di dissonanza narrativa, ma in realtà è una dissonanza stessa all'interno della narrazione, perché hai questi momenti molto leggeri, molto, diciamo, divertenti, ridicoli, così, ma intervallati con momenti molto tragici dove tu magari risolvi un problema con l'arma, ma il gioco ti fa sentire in colpa perché lo hai fatto. Mm-hmm. Il personaggio stesso di Snake spesso è... se non apertamente amareggiato, o almeno internamente amareggiato, uno dei boss più famosi per questo è Sniper Wolf, che è appunto un cecchino che tu devi per forza, purtroppo, far fuori per poter proseguire, e il gioco appunto ha questo momento molto tragico, molto pieno di pathos, diciamo, poi anche citato in altri giochi. Stessa cosa con The Boss, stessa cosa con... insomma, ci sono tanti giochi dove anche quando ti fa uccidere per forza qualcuno per poter proseguire, hai questo momento di tragedia, anche se era uno stronzo, anche se, per carità, cioè potevi giustificare in tutti i modi possibili quel confronto finale e distruttivo, il gioco comunque dice no, non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere... questo, il modo in cui va avanti il mondo. Spesso si mette un po' a criticare l'utilizzo stesso della violenza e della guerra come una macchina per generare soldi, per plasmare letteralmente le menti, a guadagno di un gruppo di pochi eletti molto ricchi. E questa cosa un po'... è la portata un po' all'estremo, secondo me, con Metal Gear Solid Phantom Pain, dove aveva perso un po', al di là del finale non esistente, aveva perso la speranza, aveva perso un po' la luce, aveva perso un po' anche la voglia di calcarci un po' la mano, e sono contento che con Death Stranding sia tornato un po' a parlare di questo, facendo un gioco dove essenzialmente sparare è impossibile, se non caldamente sconsigliato, mettiamola si così. Può dire di tutto su Kojima, ma non che non, che non fosse sempre contro la violenza, direi. Pensa anche solo a The Sorrow con il Metal Gear Solid 3. Penso sia proprio... Se magari tutte le altre volte era un po' più sottile la cosa, vedevi Snake che sembrava contrito, così, quello lì era il metodo più palese di metterlo. Proprio se ammazzi qualcuno, poi dopo ci sono le conseguenze. Più palese di così non poteva dirlo Kojima. E magari era anche questo a cui mi riferivo prima, cioè volere un po' più quei giochi che non sono violenza solo per... Cioè non usano la violenza solo per usare violenza, ma usano la violenza, non ti danno solo un martello, per continuare la metafora di prima, ed il fatto che non ti diano solo un martello, ma anche una strada alternativa che ti facciano riflettere sulle tue azioni dell'usare violenza oppure no, rende appunto il messaggio ancora più pesante quando capisci che sta cercando di far passare questo messaggio di non violenza, cioè proprio perché a quel punto sei tu che hai la scelta veramente di o continuare a perpetrare gli orrori che vanno avanti da millenni, o magari cercare appunto alternative, qualcosa di nuovo da provare. E beh, come stavi già dicendo tu, perdonami se ti ho interrotto, Kojima, forse anche quello in mezzo a tutto quel panorama di violenza gratuita, sempre stato un po' anche qua all'avanguardia, mettiamola così, nel voler criticare in maniera così seria e non media che... Abbiamo già detto queste cose, fammi di nuovo togliere. No, vabbè, il fatto è questo, cioè, io volevo prendere un po' per il culo Lindsay Wagner, che nelle interviste diceva sempre, Lindsay Wagner è l'attrice quella di... Quiet? No, quella che ha fatto Six Million Dollar Woman, come cazzo si chiama, o The Bionic Woman, e che in Death Stranding fa la presidente degli Stati Uniti. Ah, ok. E lei diceva che la ragione per cui ha consentito, insomma, a partecipare al progetto è perché era un videogioco, sì, ma un videogioco dove non si sparava. E ora, cioè, quando l'ho sentito mi sembrava molto appunto la madre preoccupata che diciamo all'inizio. Tra l'altro alla fine in questo episodio non abbiamo citato quello che pensavo avessimo citato, cioè volessi citare tu, il fatto di tutte quante le varie denunce fatte ai fratelli Hauser per GTA, Hot Coffee. Ah, beh. No, vabbè, sti cazzi, nel senso... Ma di nuovo, perché non volevamo andare di nuovo fare la solita, argomenti, sì, sì. Cose così, che palle. E vabbè, comunque, la cosa che diceva lei, in realtà alla fine ho capito, è che proprio... È vero che Kojima parlava della violenza e criticava la violenza nei suoi giochi, ma... Comunque c'era la violenza in quei giochi. Comunque erano giochi non molto accessibili per una persona magari più sensibile o meno abituata alla violenza, perché magari non riusciva a superare quel blocco iniziale di quello che ti era richiesto. Anche se, appunto, come dicevi tu, la scelta c'era sempre di fare cose in maniera non letale o evitare il conflitto il più possibile. C'erano momenti obbligatori. E secondo me la cosa di diciamo, come posso dire, di più, che mi ha lasciato più, che mi ha traumatizzato di più del lavoro di Kojima, è un momento in Phantom Pain, che ora vi spoilero, dove The Boss è costretto a uccidere i suoi soldati, i suoi, diciamo, sottoposti, i suoi compatrioti. Tu hai passato l'intero gioco a raccogliere questa armata e hai imparato a riconoscere i loro nomi per un motivo o per un altro, perché li incontravi nella base, perché li usavi in una missione, ti aiutavano in un certo modo. Quindi sapevi riconoscere i nomi di quei soldati, li riconoscevi. Erano soldati che tu personalmente avevi reclutato magari con un bel palloncino divertente, ma quella scena mi ha fatto capire, ok, cioè... Il gioco mi sta costringendo a fare violenza contro persone, miei amici, alleati che mi hanno aiutato. No, io non ho cercato sempre di non uccidere mai nessuno in quel gioco, io non ho mai ucciso nessuno se potevo evitarlo. E il gioco ha detto no, a questo punto sei arrivato a dover per forza ucciderli, li riconosci, li uccidi, e loro non oppongono resistenza. Io stavo piangendo, ero devastato. Hai odiato quel momento? Ho odiato quel momento, ho odiato Kojima per averlo fatto, ma l'ho anche amato perché ho capito... Cioè, in quel momento mi ha venduto l'idea che questo fosse il villain, tra virgolette, il cattivo mitologico che c'è negli altri giochi, perché negli altri giochi di Metal Gear, quelli appunto in maniera cronologica ambientati successivamente a questo, hanno sempre avuto The Boss, che è il protagonista di Phantom Pain, come il villain, come il cattivo, e fino a quel momento nella trama non ho mai capito. Non, cioè, non era chiaro come fosse diventato un cattivo, ovvero era comunque già al di fuori dei meccanismi nazionali, era già al capo di un esercito di mercenari, quindi ok, il passo non era lunghissimo, però da qui a dire se è attivamente considerato un pezzo di merda e ti comporti da pezzo di merda, ce ne passa. In quella scena ho capito, cioè in quella scena ho capito come una persona del genere, trattata in quel modo, cioè costretta a fare una cosa del genere, possa spezzarsi, no? Possa cominciare a capire che, possa cominciare a dire ok, quello che faccio per mantenere la pace, per non creare quelle situazioni che mi hanno portato a fare una cosa terribile, alla famosa The Boss, come, cioè, in altre situazioni, mettiamo così, senza spiegare altre cose. Non servono a nulla, è inutile ed è, cioè, fondamentalmente, non Orribile. so, creano un demone a tutti gli effetti. Allora, se, di nuovo, per non dare un messaggio troppo sottile, io penso che sia ancora più bellissima perché se uno, come dire, si ferma un attimo a riflettere, e prima ti ho chiesto, hai odiato quel momento, e io credo che sia perfetto quell'idea che è così che andrebbe usato un gioco, cioè riuscire a portarti in quello stato d'animo. A vivere un momento per farti passare un concetto finale e pochi ci sono, nonostante la quantità di giochi, come ho dimostrato prima, che sono usciti, ben pochi ancora ci riescono bene. E appunto quello lì, tutti quei momenti di violenza forzata, no? Tutte quelle cose, io uccido, ma perché magari devo farlo, devo. C'è qualcuno più in alto di me che mi dice di farlo, chissà che cosa. E in alcuni giochi vengono glorificati, come dicevamo prima, ci siamo già lamentati nell'episodio di Six Days in Fallujah di come venisse glorificata l'immagine del soldato della guerra. Mentre qua è molto più vera, molto ti fa capire che anche quando sei forzato così, non è sempre bello, non è sempre da eroi. È orribile. Come cosa è ripugnante, è ingiusta e forse è anche arrivato il momento di dire un po' basta, tutto lì. E di nuovo si continua a dire quante pippe stiamo facendo a Kojima, eccetera, eccetera, e così. Però io faccio ancora fatica a guardarmi in giro e vedere altri giochi che lo fanno un po' alla stessa maniera, che comunque si riescono a prendere tanto seriamente e che di nuovo, mi sto di nuovo ripetendo come tutti gli altri episodi, riescano a utilizzare il mezzo per trasmettere il messaggio e non solo semplicemente metterti l'NPC che dice ah sì, uccidere è sbagliato, niente spada leggendaria per te. E come diceva Jacopo, quella è una delle scene più forti di tutta la saga. Grazie a Dio, almeno quella non è stata tagliata, perché santo cielo. E quindi, che dire, io la mia stronzata l'ho fatta, mi sono penso di essere a posto, dai, per almeno qualche altro mese, forse altri episodi. Non so che altro aggiungere, abbiamo parole finali, Jacopo? No. Ok. Ed allora, con detto tutto questo, grazie per averci ascoltato, grazie per aver ascoltato me che ho letto numeri a caso così e ho cantato le mie lodi per circa un'ora e mezza. Ne avevo bisogno. Io ero Marco. Io sono ancora Jacopo. E continuate a giocare. Ciao ciao.